cambio radio. Sono con 5 watt, aspetta che cambio radio, Daniel. Attento Daniel, siamo in 3 a Sassari, li senti? Cioè vabbè, uno non lo puoi mai sentire. Antonio, lo senti Oristano? Ma come te lo ascolto io qua, con te 2009? Non arriva nulla, QRM0 e neanche lo sento. A meno che non... Boh. Di solito se uno passa in FM lo sentirei. Succedeva così una volta con Kimwood. Quando parlavamo qualcosa con... ce lo sai anche tu. Facco, adesso mi viene in mente il nome. È peccato, non lo senti, ma già arriva molto bene. Neanche a Roberto arrivava l'altro giorno. Daniel, con quanti watt stai andando? Ecco un attimo. Dove pare Gianniro Perù, mi pare. No, c'è Daniel sotto, ma Gianniro Perù già rintendo. Aspetta Daniel, dimmi già. Gianni, sì, già arrivi, bacio ma già arrivi. Sì, Daniel, sì, hai parlato assieme che c'è un collega qua a Sassari con la radio portatile. Va bene, intanto ti sento solo io, sempre il solito discorso, quindi un abbraccio grande, grazie per essere entrato a salutarmi e buona cena, ok? Un abbraccio. Ti saluta Antonello Alessio, Antonio Bombolo e Gianni Doppiorumo che sono in questo così qua con me, ok? Beh, spero di sì, fatti sentire prima di Natale, così ci facciamo gli auguri. Ciao, un abbraccio Daniel, a presto. Anche a te, ciao ciao. Vai Antonello, che tu lo senti meglio a Gianni, cosa ha detto? Che cosa ti so? La verità è che quello lì non l'ascolto per niente, quello che stai parlando tu. Nulla, non arriva con 2009. Niente da fare. Una volta, quello che vabbè, se avevo avuto il chiamo di 140 magari avrei sentito un FM tranquillo, oppure mi ha dato l'altrare. Ma con questa apparecchio normale, nulla, vabbè, quel remo ce l'ho zero. Grazie a Dio, non è scarica elettrica e nulla con 2009. Il 2009 è quello mio, è sempre 2009, da 20 anni a questa parte. No, ma malato problemi. A me mi arriva Santiago 7, mi arrivava 4 con il Pony, però mi sentiva sul fondo, perché chiaramente c'ho 3 watt solo, 4 watt, poi sta parlando con 20 watt, e mi arriva quasi Santiago 9 io, Santiago 8 abbondante, lui mi arriva a 7, Roberto non lo sente, tu non lo senti, dalle alture di Carbonazzi, Claudio Sfarviero prevale ancora. Mi vede la vita, mi vede. Oia, guarda. Mi viene solo il ricordo quando facevo schietta da quella di cosa di... Vabbè, ormai non c'è più, non se è morta, se è viva, se l'ha trovata via vulcano. Con la spagnola che parlavamo io, tu e Antonio, tutti i giorni, su 16, a te lo ricordi, cazzo, ma la cosa, Falcone secondo. Arrivava anche forte quella, allora, no, ma tu... Hai adesso, perché mi ricordo quando eri in via Rezzedu, che facevamo certi QSO con la zona di Campidano, non ricordo. Lì a Tome sei leggermente coperto, poi con l'antenna è bassa, ed è un casino. Io sono un bel, ma io adesso l'antenna è 6 metri alto, il tubo, prima era 2 metri, ci sono 4 metri in più di tubo, e beh, un bel libera. Ma non c'è quanto avete aumentato, tutti quanti. Tu sei sopra il DB, Antone, sopra il DB proprio, dove c'è la linea Watt, capito? Superi la linea proprio sopra il DB, arrivi anche più forte di Roberto. Roberto, tu sei sulla B del DB e lui è sulla D, capito? Quindi immaginati, prima eravate 60 tutte e due. Un bel, bei segnali c'ho, veramente, sono contentissimo del lavoro che ho fatto, finalmente. Ho soltanto l'antenna dove c'era il traliccio delle direttive, capito? Va bene, no, Daniel entra spesso quando mi sente, perché sente solo a me la Sassari, capito? Solo a me sente la Sassari, lui è proprio dentro Oristano, all'ingresso, sente solo a me, per quello non... Però... vicino che lo senti meglio. Fa avanti già, ho appena collegato i fili. Capo, già ti sento, già ti sento. Non c'è problema, sì, Santiago 4, Radio 5. Sì. No, non so se ti sentono loro. Io già ti copio. Ok, non lo senti tu? No, adesso mi è sparito, prova già me. Aspetta, uno, due, tre, prova. Non mi arriva più neanche a me, è arrivato mezzo passaggio e poi è sparito. Non lo senti io, Gianni, guarda, ma stiamo provando. Chi è? No, tutto grilli, sì, chi è? Non lo fai, tu sì. Cosa? Tutto tu sì, mi ho bruciato nulla, sei tutto a grilli. Hai sentito a me come sta facendo a voglia? A voglia. Non attaccare la linea, tanto che è meglio, se no ti si chiede a tutto. Vai, Dromedy, che ho preso, ho cambiato microfono, ho cambiato microfono, non va bene. Radio Gigante! Luca, se ne scendi. Sai che sta parlando Gianni? Già, cosa c'è? Radio Petitbella! Già, dimmi, cosa c'è? Lo so già, lo so. Purtroppo ho fatto una prova, ho fatto attaccato il microfono dell'altro apparecchio qua. Va tutto bene, però c'è qualcosa che non va bene. Ok, dai. Ok. Ma che microfono hai attaccato? Oh, bene, ti ascolto già. È quello del 550. E non va bene le connessioni? No, sicuramente no, l'ho provato poco fa, non andava bene. Ma è strano però, perché con quello là l'ho provato del 550 e andava. Vabbè, là, non fa niente. Ehi, già, mi stavi chiamando? Sei capo, sei Santiago 1, adesso non ti tiro quasi più fuori. Ok, avanti, là. Ma ti sento già, mi sto facendo il letto, dimmi. Per sapere? Già ci sento basso basso pure io, Ho sentito portatile e basta. Là, tu lo senti a Gianni? A volte sì, a volte no. Tu pensi vicino a me, non lo sento più. Gianni, prova. Adesso sì, segnale 2, sì. Quanto passaggio niente. Cattivo già, non ti sento. Ma che Gianni è? Gianni Pedivella. Ma non Gianni Pedivella sei tu, cosa c'è? Sicuro c'è di Pedivella, ok. E beh, adesso come sta uscendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drogato mi pompo, ho capito. Tu sei drogato! Ah, sono drogato! Scusando il 2009. Sono stati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E sta televisore si sente tutto, ora di testa, ora, avvicinami le voglie del microfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Che non c'è, gatto, dove vai a facciarmi la radio, la mazza che te ne varia? A me pure non lo usavo, glielo sai. Sì, adesso già stacco, ora ha fatto un paio di passaggi, che cazzo, per farlo funzionare. Usando il Ubeque Speedy CTE, ancora pompa. Pompa e pippa la pompa. Fate rimanere la radio però. Ehi, pompa. Ehi, pompa. Mazza, te ne vai ragazzi. Poi dove c'è sopra la B del DB, cazzo di Aro, ti devo attenuare per ascoltarti bene. Non comprendo un accidente. Ah, ne sa che c'è Bosio. Chi è che ha detto pompa? Ma la fate tutto, pompo, che ti rimani tutta la radio, sembri con chi dei telegiornali delle alluvionate. Ah, ciao Antonio Riserva. Ai, caro, quando mi dici così mi... Tu sai che mi cambi il nervo. Guarda che bello che sei così. Ah, caduto, così stai andando benissimo. Ciao, Antonio Rice. Ehi, ciao, Cla, ciao... Bombonio, Gianni, che l'ho sentito un attimo, sto facendo delle cose qua, Luca e Bombolo. Oh, Antu, dimmi Luca. Cos'è questo ciucucciù? Non ti vado a mangiare, dai che tardi, che sono già le 9. Sì, che sono almeno un quarto, sono. Ciao a tutti, ci sentiamo dopo se ci siete, ciao ciao. Che brutto vizio che hai, ciao ciao, buona cena. Ciao Claudio, buona cena. Antu. Cazzo, avete fatto in tre? Ah, io, ma fa vedete una la voce. Oi, oi, oi. Ma di che l'abbiate in via Milano, vedi cosa? A me se te lo inchiodo quello Smither. Oh, non si è sentito niente, non ti hanno messo la portante. Ma me ne buccio la basso, basso, basso. Oh, c'è uno, allo basso, non lo so chi è. Cazzo, con 3.000 dopo me lo mangio. Caro, che cammino cazzo. Adesso mi diverto io. Con 3.009 e lo spedisci ti è. Davvero, sei prendere per il tuo, non mica attacco l'altro me. Ah, io attacco l'altro che sei basso di radio, allora davvero Antonio. Ma qualche volta con la radio bassa no, non può uscire. Aspetta un attimino. Dai, attacca l'altro, dai, cazzo, boh. Ma devo sentire così basso. Sono in computer 747, mi porto su l'alimentatore da 50 ampere e mi gioco io, con 100 watt, ci avete? No, vabbè, io nato nel 2001, la campagna però posso vedere io. 100 watt, basta, non potrei farti, non ci bisogna attaccare 1000 watt, 100 watt, ci mortate, se no te ne dici di capo. Tu dici? Bastano 100 watt, vabbè, io qua 150 ce li ho. Nico, io se ho, allora, se io sono 100 watt qua, un esempio, molto importante, no? Tu non senti a nessuno, poca gente, ma tu riesci a superarmi. Ok, però molta gente, un bel dietro non la senti. Beh, quello sì, ma bastano anche i 20, non c'è bisogno di 100. Per togliere la ricezione è un discorso. Hola, hola. Solleva, tu solleva appena. 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova. Allora, io sono del parere, questo è un mio parere, non è la potenza, è la radio che conta, avere una bella radio, uscire bene, no, io va, se tu vado, e c'è una radio che fa schifo. Ma tu sei di quelli che dice che non conta il pisello lungo, ma è come lo usi. Questo. No, perché ce l'hai piccolo. Chi è? Buonasera Antonio. Adesso bisogna trovare, ma tu se troviamo un altro Antonio battezziamo un asino me. Ah no, già c'è Antonello, adesso bisogna trovare l'asino allora. Cazzo l'asino, ah, adesso ho capito chi è quello. Questo è un mici morto, te lo dico io. Ciao, so chi è, non ti preoccupare. Ti conosciamo già da un po' di anni. Adesso va bene la radio. E beh, Antonio Grode, come stai? Bene, bene, bene, vi sto ascoltando, mi sto divertendo. Stavo mettendo un annuncio sul tuo portale. Sento un po' basso, Antonio, come mai? Non c'è l'antenna. Ho negativo antenna, sono da dentro. Adesso sto finendo una cosa. Ah, ok, da. Andava. Pompo, è così, è quello che dico. Non ti avrei tanti watt, ci vuole anche la radio bella. Uno deve uscire anche bene, capito? Io la penso così. Poi, se uno preferisce avere tanti watt, farsi sentire, e avere una radio brutta, non ha senso, secondo me. Meglio avere pochi watt e uscire bene di radio. Vero, Antonio Rizzè? Ma che cosa ne so io, boh, gli assicurati. Scappa, stavo dicendo, però dai, quella là è normale, cioè bisogna anche accontentarsi qualche volta. Io non credo che ti crepa, è cazzo va volato. Chi è che crepa? Che ti ha cazzo in gatto, cosa ne so io? Hai trovato il crimbo, e tu sì, certo che lo passi, io. Vabbè, la prossima settimana scendo in un posto, poi voglio vedere se giochi ancora. dipende da una persona, ragazzi, ne ha dato 500 nel salgo. Poi vogliamo vedere a giocare. E Anto, adesso ti arrabbi, cazzo, sei stata una settimana, se vuoi andare a me, ma ti arrabbi, io non mi arrabbio più, mi lo sai, mi frega sempre quando mi sono ammurato. Già lo sai che c'ho il Bipo 2002, quello che ha sintonizzato, è fermo da una parte e poi con l'avvalore devo sistemarlo, quindi vedi tu, ma non ho nessuna voglia di attaccare una cosa del genere, a parte che cavolo non regge, è 58, quindi cosa mi incendo, di apparecchi per un lineare, per fare le prove, non saranno, a parte che vabbè, il cavo ce l'ho qua a casa, devo piazzarlo perché me l'ha regalato Fabio Master, adesso uno di questi giorni me lo piazzerò appena cambia il tempo, me lo piazzo e così il resto di un attorno è a posto. Ah vabbè, io poco fa lo stavo usando per una radio normale, non è che mi interessava spingere, ma se voglio spingere spingo però, e chi dà ragione? Sì, vabbè, non è niente, non ti devo mica offendere, perché me l'hai fatto tu a me una settimana, mica mi sono incazzato, mi sembrava bravo anche dire qualcosa addirittura, se ti ricordi, anche con l'inea attaccato, e ti divertivi, quindi mica mi sono offeso, io se la biglia in culo, mica devo stare a sventiare a... Non brucio gli apparecchi, no, per fare la prova, no. Una volta si può, mi divertivo, con 600 watt e con il registro 113, e allora sì che la questione andava, non c'era per nessuno. Ma adesso ormai la questione è cambiata, c'è il registro 58, ho lasciato quello e vaffanculo, non devo stare con 50 cavi, cazzi grossi, bucarmi il muro e farmi i buchi tipo coso, cazzo, per passarmi tipo subire il gas, non saranno. Perché cosa? Pensavamo trovare qualcuno, ma se la biglia in culo. Più che altro è... ogni tanto un divertimento si può fare, ma non più di quei watt, perché le 4406 quanto regge. Più di 300 non puoi dargliene, se ne ho 600 mi incendio tutto, mi incendio, avrà avuto, se ho l'appaduto, no? Basta che lo sbaglio che ho fatto l'altra volta, quando ho riparato il lineare, il BV 2001, e ho attaccato 500 watt e mi sono tornati i watt indietro e ho bruciato un finale, quindi non me ne fotte nulla. Ma chi sta già andando però a radio? Ora dici bene, Antonio, c'è problema per quello, ci mancherebbe, ma ti avanza, al limite poi, un domani facciamo le gare, vedi, quello che vuoi, quando ci avrà l'antenna bella come si deve, facciamo le prove, a chi arriva più forte fuori, cosa ti posso dire, vabbè, che non ci manca un cane, ma una volta si faceva così, che arrivava più forte verso la zona di Cagliari, Luristano, Nuoro, ci facevano le gare, non è che facevi via, lo passo, no. Ci chiedevo dei controlli, chi era più alto, boh, era a posto. Ma c'è gente che si è fuso l'antenna, si è fuso il cave, si è fuso il... io so di così, a spercare non ne ho. Purtroppo non sto lavorando. Ho stato miliardario, al limite mi sarei divertito per dire. Dovevo dire a pure io. Allora sì che ne abbia attaccato le roba. E va bene, dai, sto giocando, dai. Eppure voglio fare una prova con questo, con quell'altro microfono. Aspetta che lo tolgo. A ver se va bene in questa radio. Allora, attacca, quello che vuoi. Ti diamo un controllo. Ma va bene? Sì. Se là non ci andava bene quello là. Ora è chiaro, non è mica cupa, è a posto. E lo so che questo non è radio mio. Va bene con quel tipo di apparato. Da uno all'altro cambia a me. Allora è perfetta, è chiara, non è cupa, hai capito? Però il segnale c'è, perché c'è il segnale. Chi l'ha in riserva, chi l'ha chiunque, là. scappa e mi rimango meravigliato perché poco fa l'ho attaccato, ho fatto lo scambio e non andava bene quello là. Non capisco perché. Chiedo, controllo chi c'è da. Luca, ma va bene con questo microfono? Io anche ti sento benissimo, lascia questo che è meglio, c'hai i toni alti, invece quello di poco fa c'hai i toni cupi, hai capito? Ma cambia veramente. Cazzo, ma parli, ti dico io, Antonio, lo sai che già mi conosci, no? E io ti dico le cose come stanno. Parola, eppure sono precisi, lo sai, sono precisi come microfoni, però sicuramente cambia la tonalità. Esatto, bravo, ci sei arrivato. Antonio, faccio sì. C'ho il telefono, Antonio. Ah, c'è il telefono, ok. Chi c'è rimasto di altro che possa dargli un controllo di radio, adesso che ho cambiato il microfono, secondo me va meglio adesso, c'è Tony altri. Capito perché? E questo è dell'altro, del Russi, è questo qua, eh. Allora, che ti dica io, lasciami quello, va bene. Coppa mi hanno detto che non usci fa quello là. Adesso va a tornare a provare a vedere. Cazzo di altro. Non lo so. Beh, come sono io? Chiaro di radio o sacco, non so. No, fai la radio magnata, Antone. Magnata? Cioè, adesso va meglio? Peggio che mai. Peggio che mai, quindi termina il 9 non va bene, l'unica cosa che va bene è il 87, che pilota meno watt, che è più watt la verità, è più tranquillo. Vabbè, adesso non voglio attaccare il coso, il 2009, che è il Colle 4000, che quello è molto meglio di questo qua. Questo c'ha 20 anni, quello che sto usando adesso. Ti ricordi il primo apparato che ho avuto io, tanti anni fa? Sto usando quello con il mio adesso, con lo Speedy CTR. Quindi figurati. Questo già va a quanto sembra. È un apparecchio che non uso, Sai da quanto è fermo questo apparecchio qua? Minimo 3 mesi. No, 3 mesi, cazzo. 6 mesi. 6 mesi, perché Giovanna ha usato sempre il Connect 4000. Sai che faccio una prova, Antone? Sì, d'accordo, ok. Sei dove, Luca? Cosa, Pupo? Tanto sei rientrato, Luca. Come parlo nel letto, dai, c'è un... Hola, mi sentite? Ma che è sto sento male? E Antonio sta provando un microfono. E con Piccio? C'è una roba da matti, cazzo. Luca, come senti Antonio adesso? Come sempre. Zappa, questo è il microfono dell'altro apparecchio. Com'è? Già va bene. Sto diavolo, non va bene per invece per qua. Ti ti pare un piccione, cazzo, non capisco perché. Per qua è perfetto. Cosa vuoi che dica? A un certo punto, allora, vediamo un po', aspetta, vai, adesso è spento, ora prova. Sai che faccio un'altra prova? Devi fare un'altra prova, là, già sono qua. Luca del Monte, come dato sparisce questo? Ola, mi senti, Antonio? Sì, metallico. C'avevo l'altro apparecchio acceso. Ok. Ma già va bene, dai, che cazzo, dai, è piccolino. Funziona? Sì, già funziona, voglio. Invece quando metto questo qui ne esco un pochettino. Ma la modulazione alla fine aumenta o non fa un cazzo? Adesso non stai riescando, sei a posto. Veramente, non sto ne scando, ma la modulazione è migliore. Sì, è più toni alti la linea, meglio di prima. Tappa, adesso è con 4 watt, va bene? A voglia. Va, dovrebbe andare bene adesso, no? Non si sente Nischi, niente? No, vai bene, a voglia. E con lui acceso, da problemi? No, si è a posto, perfetto. Adesso ho acceso lui. Cavolo, ma con l'SP però pompa di più, la verità. Cazzo, se si piglia lo sai, è una cosa diversa. Scusa, se tu c'hai un chemudo e vai dalla MFM, lo sai come pompa il doppio? È fatto così il chemudo, per dire. Per dire, se sei 25 watt passi in automatico 50 e ascolti tutti. Io quando usavo il chemudo di 140, per dire, sentivo tranquillamente un distano, quello che era, passavo un segnale da Santiago 7 a 9.20, hai capito? Il discorso è quello, era fatto così con l'apparato lì. L'unica cosa che c'aveva di bello era quello, il chemudo. O vado a creare un FM e parlavi con la tua centro Sardegna, da qua, senza l'idea, senza nulla. In teoria dovrebbe pompare di più con quello lì attaccato. Ora, però magari si sentono i rumori, si sentono le cose un po'. No, sei perfetto. Io ti ascolto bene, la verità. Cappa. Già c'è la differenza, io c'ho anche differenza in trasmissione. Ma non lo senti l'innesco, Antonè? No, l'innesco non lo sento, c'è la modulazione che è chiara, la verità. Di solito tu senti cupo quando attacca quell'apparato lì. Questo c'ha quel microfono lì che c'ha la modulazione che è chiara, in pratica toni alti, capito? Allora tu ti senti un innesco quello che vuoi, Marco. Così non è. Io sento chiaro, se avessi sentito l'innesco vi avrei creduto, non sono l'altro. Buonasera a tutti, allora Anto, come ieri, nelle pause del parlato c'è questa specie di... Non ho capito, ma si sentono rumori, si sentono sotto. Ehi, come ieri, nelle pause del parlato sotto c'è questo... Gli ho già spiegato 50.000 volte, Antonio, se lui attacca l'SP cosa attacca a fare? Mi fa quel problema lì, e lui attacca sempre, gliel'ho già detto io, Marco. Ma il Pomponio dice che non sente nulla, forse c'ha le orecchie foderate di prosciutto. No, sto usando il 3009, è la verità, io quei problemi non li sento. Forse sa perché è filtrato, quello che vuoi, ma quei di ritorno, come dici tu, non lo sento, la verità, lo sento chiaro. Pausa, cioè quando fa lui le pause, non sento niente. Solo che l'avevi detto, lo sai anche tu. È importante, Anto, poi devo sentire, vediamo un po', se sta a parlare, vai, se c'è importante. Aspetta. Non c'è niente, no? Siamo l'SP. Prova. Vai, Anto, fai un passaggio lungo, fai pausa nel parlato, vai. 1, 2, 3, prova. Adesso lo sento, sì, c'ha ragione. Sento ma basso mi, basso. C'ha ragione, se tu agganci quella cosa si sente. Il problema è che tu facevi, per dire, pausa di quanto posso dire, un secondo, non ci fai caso. Però adesso che l'hai fatta lunga, ha agganciato con l'aggeggio, c'ha ragione Luca. Ah, Marco, fa la pausa, non hai parlato. 1, 2, 3, prova. E quel cazzo di alimentatore che sicuramente se la vento è che se lo porta presso. No, qui c'è un problema di innesco, non è contenuto l'alimentatore. Ma non sarà un rientro dovuto all'alimentatore poco schermato, che ne so lui? No, ho provato anche l'altro la stessa cosa. Comunque Anto, te l'ho registrato e te l'ho mandato. Fatti un'idea. e lo fa nelle pause quando non parli, cioè trova un passo all'altro, senti questo gufo. A me mi senti bene comunque adesso, Marco, sì, non sto più come gli altri giorni, adesso sto usando il 2009, quello mio originale, l'ho preso giù da casa di Giovanni, me lo sono salito sopra. Questo microfono mi sta facendo incazzare. Sì, Antone, tu quando attacchi saturi, c'è poco da fare, non riesci a pilotarlo in modo appropriato, tutto lì, va bene. Saluto anche Luca, saluto tutti, dai, mi sto facendo il caffè, sono sempre all'ascolto perché di parlare non ne ho tanta voglia, qua lo lascio acceso tutto il giorno, ogni tanto mi siedo, ascolto, ogni tanto faccio altro, ok? Dai, riprendete, vai Antone, vai Luca. Ma qui ho bene, sto uscendo, ma si sente i rumori di sottofondo. Aspetta, Vai. Stai facendo la cacca? Le campane si sentono. Addirittura la campana dei cappuccini si senti, maffa. Sì. Sento. Renove? Chi è che stava parlando sotto, Marco? Chi è? Chi è? Chi c'è sotto? Mi sa che è Bonpuglio. Bonpuglio, quello va a passare a Marco. Marco non vuoi 30 nonchi. Stavo dicendo, non è che sei... Senti questo... Non è che stai facendo la cacca in bagno, non per sbaglio. Perché sto facendo? Che cazzo di vento, adesso l'ho sentito. Si è parlato una volta, vi capisco. Cosa hai detto, Pompo? Se Marco mi lascia parlare, ho detto, non è che stavo facendo la cacca in bagno, no? Perché sentivo questo... Ma... Masso, la verità, Che la faccio la mattina, non la notte. Bianco, per me, là, che vado a lavarmi. Sì, adesso l'ho sentito. L'ho sentito, è tipo... cazzo, io sento quel cazzo di vento, ma se l'ho sentito. Mi hanno mandato la registrazione, fa un casino qua. Ha detto la lineare è quella, è barrato. Il lineare non è a ventola, quel lineare non è a, il 747 non è a. No, me l'ha detto l'elementatore. Lo so anch'io. Non passi Antone, se li prendete assieme, passa Bombolino. Basta, passa Bombolino, poi mi sono venuto a Bombolino a me. No, io non metto più 27. Kappa, dai. Fa così, fa, ho già capito che cosa è. Ragazzo di Bossuva. Lo tengo così e basta, dai. Guardate che mi sentite in modulazione. Sì, già si sente la modulazione, però ho sempre questo gufo, appena c'è una pausa, ma domanda, te lo fa solo col DSP inserito o senza il DSP anche? Con l'SP perché ci porta via tutta la cosa, tutto un casino, capito? Cioè se lo togli sparisce, gira. Sì, allora vedi che già sparisce. E tanto vale toglierlo, guarda che chiari più bene lo stesso, la modulazione è buona lo stesso. E magari amplifica un po' di più, capito? Ma così è pulita, adesso è pulita veramente. Dai, vi saluto. Non ne ho voglia di parlare in questi giorni, non me la sento tanto, sono veramente con le palle a pezzi. Vai Luca, ciao a tutti. Kappa, dai. Dai che io mi devo lasciare, che mi devo lavare e devo fare roba. Devo fare. Dai, ce la sentiamo domani, ok? Veia, sentitevela domani. Ci sentiamo, ciao, buona serata. Ciao, Pedivella. Ciao. Tanto, ma non è giusto però che mi sovramodulo detto a me, non è giusto. Io non ti ho sovramodulato, io ho parlato giusto. Come l'ha detto Marco, che ti ho sovramodulato Antonio, va bene, non va bene. Ti faccio pagare la bomba, ti faccio pagare, vedrai qualche giorno, ti mando una bella negra, anzi ti faccio pagare, portare la bomba una bella ragazza negra nuda, sta lì sopra, ti esce la bomba in terra, ti pesa il piede, la bomba me la prendo io. E non me ne fare la bombola. Antonio, ormai sei stato surclassato. Non ti preoccupare, tu già lo conosco Antonio, se vedo una cosa del genere, sta tranquillo che scende la bombola in terra, gli pesa il piede, se ne va in malattia, e la bombola me la prendo io. Io Tu gli ha fissato sì con queste negre. Ah, cosa mi hai pigliato? Un bagaglio? Popolaio, ti ho preso, scusa. Ho deciso che... dai, dai, che io vi saluto, che vado. Che mi sono che non c'era acqua. Vabbè, oggi a pranzo mi sono lavato, anche stamattina con la pulle. D'accordo, che buon lavaggio, Anto. Ci sentiamo domani. Fate sentire. A me nel PMR se entri. Portati la parecchio, poi ci sentiamo. Oia, che tutto gonfio sono. Anche io. Anche io. Ah, Luca, cari scendi. Claudio! Io sono tutto gonfio, mi allappati forte. Antonio Scadabagno. Ciao caro, sentite questa modulazione speciale. Di te, io. Aspetta, attacco il connesso 4000 di cosa, di Marco. Vediamo come esce. Ora ci trovo con Marcolino, ciao Marcolino. Allora, ragione Marco, cioè quando attacchi, come ti ha detto Luca, non è importante il segnale, perché cioè, se uno attacca, beh, io ti attacco, ne ho quattro lineari, due trasversalizzate e due valvolari, ma non sappola la modulazione, devi cercare di bilanciare a me. Io quando attacchi non riesco manco a attenuarti di quanto sei saturo. Quindi, se però io, può essere anche la vicinanza, ma quelli lontano, se saturi, vuol dire che l'accordo non è fatto bene a me, devi valutare l'accordo. Va bene, solo con l'altro apparato già lo sai anche tu. Con l'87, quell'apparecchio gira bene, è perfetto. Ehi, ma quando vuoi esci bene, nessuno sta facendo niente a me. Io ti ascolto e stai andando benissimo, capito? Però quando attacchi lineare, come ti ha detto Luca, intanto non c'è bisogno, perché siamo tutti vicino, tutti cosa di una fucca perché ho lineare, capito? Però ti sto dicendo, quando lo attacchi, devi fare bene l'accordo, cioè per arrivare alla potenza minima, se no è un casino, non esci bene a me. Aumenti solo di watt, ma la radio, cazzo, è importante anche la radio. Beh, quello è logico, già lo sai. Ciao Claudio. La radio è molto importante, non solo i watt, come ho detto prima, molto importante la radio. Inoltre che uno mi supera, che poi la radio fa schifo, non ha senso. E va bene, la bella radio, se lo vuoi superare, sia di watt che di radio. Come faccio io? Io lineare non mi attacco perché c'ho la radio che permette di avere 100 watt pieni, anche di più. Però dico, non serve a niente, cioè se io attacco lineare, devo attaccarlo per uscire bene, capito? Ma se tu attacchi, te ne mangia tutta la radio, non si comprende l'accidente, se tutto viene i rumori, è un casino per me, capito? Io te lo dico per te poi. Lo sai che non c'è problema, puoi fare quello che ti pare piace, però non dai la possibilità di ascoltarti bene, capito? Giusto. Dove è Marco? È 9.30 dici, un gran attacco è 9.40, se io non guardo il segnale non me ne accorgo. Spettacolare, così deve essere. Sai qual è il discorso di Antonello? Che anche se lui usa, che so, 4-4 per pilotarlo, lui gli dà in ingresso questa modulazione amplificata allo spasimo e quindi va a saturare lo stesso. Cioè bisogna usare 4 appropriati a una modulazione anche non troppo forte. Lui gliela mette a manetta la modulazione, si sente anche il televisore, sente Simona quando lo chiama, capito? E quindi va a saturare comunque. E ma infatti è brutto per chi ti ascolta, avevamo un discorso di genere stasera con Gianfranco e con Giulio. Cioè è normale che è così. Io capisco che quando siamo in tanti in QSO la voce mia è sempre quella più alta di tutti praticamente così facevo due chiacchiere, due passaggi, ma se devi fare QSO lunghi non va bene perché tanto fai sorda la gente e poi chi si mette le cuffie per ascoltarti dice ma cazzo, ti ho buttato, ti metto l'esordio, è normale, no? trombette, tutto affuscio, tutto incasinato, voi ce l'attacchi a fare. Aspetta, questo è cosa è... Quando, 4.000, quello mi ha detto Marco. Com'è la radio? Io non capisco cazzo, perché gli altri non ce li butti tutti nella mondetta, li metti dentro l'armadio e usi questa radio. Cosa ti cambia? Questo è quello che stava Giovanna. Giù, aspetta, adesso è attaccato col lineale, che usava giù, aspetta un secondo. Due minuti, eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è quello che usava Giovanni a casa sua, col lineale che usava a casa sua, guarda, guarda. Già è meglio dell'altro, Antonè. Sì, leggermente, ma leggermente quando attacchi saturo, però è molto comprensibile. Non ha nessun significato attaccare. Perché è staccato, cioè è una radio bellissima, bella, apprezzabile, nessuno ti può dire niente. Cacco fai di radio, che funzionano e sei sempre un critico a raggi invece. Sono tre apparati, uno diverso dall'altro di caratura, cos'è quello lì? Questo è quello che mi ha regalato Marco, Marco mi ha regalato questo qua. È il Connex 4000. Quindi figurati tu, attaccato col lineare, il suo cazzo di pipì che c'ha, allucinante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pronto. Marco, com'è la te? Confermo, molto, ma molto, ma molto meglio di quello di prima. Molto più chiara, che ho anche attenuato, è buona rispetto a quella di prima. C'è una lievissima, ma lieve saturazione, una cosa è trascurabile, no Claudio, più o meno. Brecco, brecco. Hai iniziato a brecchi in profetta? Sì, ma cazzo, Antonè. Cioè, io non lo so perché, questa è una bellissima radio, usa questa, così la finiscono di dirti che c'è il mare, se ha rumori, se il vento, se qui c'è là. Anche se attacchi, è leggermente satura, capito? Quando ti serve lo puoi attaccare, se no esci liscio e c'hai una bellissima modulazione, Antonè. Io te lo dico per te, perché se hai una radio che esce bene, usa questa, ma 100.000 volte, gli altri lasciale perdere, ma 100.000 volte, come timbrica, il segnale non cambia, anzi mi sembra anche più forte, liscio e attaccato. Ma la radio è bella, è importante la radio, come ti ha detto Luca, come ti sto dicendo io, come ti ha detto Marco, capito? Avanti, Roma Fè. La verità è che quando c'è la voce da omosessuale ci puoi fare poco. Che disgraziato, va che sì. Tanto alla Pacciani. Aspetta, facciamo entrare la boffetta. Ciao, Grobbe. Buonasera, ben ascoltato. Avanti, la boffetta. Eia, buonasera a tutti. No, ne approfittavo per chiedere un controllino a Marco e ad Alessio per come mi diceva adesso che c'ho l'antenna veicolare. 9+20 qua in questa panica qua, radio 5 a bomba. Comunque là, sono d'accordo con te, Pomponio, no, boh, non lo so, allora lì fa, non ho mai sentito bene come esco io, come esci tu, come esce tanta altra gente, ha sempre dei difetti, innesca o magari i microfoni, il PTT fa quello così, mangia PTT sporco, non ho mai sentito uscire bene, così va benino quando non stava lì a manovrare col 140, no, 680. Aspetta, guarda che l'87 esce veramente bene e tu già lo sai anche tu, un sacco di volte mi avete detto abbassa, allora stai scendendo un po' forte. E vabbè, soltanto ci vuole veramente bene, questo te lo posso confermare perché è vero. Forse ho fatto quello sbaglio a venderlo qua, la verità, perché anche Claudio me l'ha detto, dice l'unico apparecchio dice che usciva bene con te, comunque il microfono era, come si chiama? Il Tivolo XC80 con quei microfoni ci avevi tu, l'unica cosa era quella. Poi dopodiché vabbè, ho cambiato la volta avanti eccetera eccetera. Comunque l'887 esce bene, perché mi avete confermato tutti un sacco di tempo fa, usciva anche troppo forte addirittura e si sentiva tutto il rumore di fondo, e questo va bene. L'887 non c'è niente. Adesso sto usando io l'apparato che mi ha regalato Marco Condo, il Condes 4000, esce bene lo stesso, in pratica è quello che stava Giovanna in casa sua. Adesso ho staccato il lineare, vabbè, e quindi si nota la differenza che c'è. Se attacco il lineare, l'unico che va male in pratica sarebbe il 2009, che ha più di 20 anni, non gli ho fatto mai nulla, la verità. Quindi a un certo punto sembra che gli danni su se li abbia fatti, no? Allora, scusami un attimo, Allora, innanzitutto quando si fa il radio non ti riportate, a parte sei troppo amplificato, uno. Perché a me quando mi dicono sono troppo amplificato abbasso, ce l'ho a 5 il microfono, allora, posso mettere anche qua così a 3, penso che vada bene. Ti porti tutto il QR, il QRL, o del QRA, non il QRL, QRA, dietro, il televisore sente più il televisore che tu. Dovresti anche quello lì, vedi, io ho il televisore acceso, no? Ti faccio un esempio, guarda. Faccio così, parlo modulo con il televisore sottofondo, non è brutto Pompo? Si sente, ma si sente anche da me. Lo stesso canale c'è, non solo l'altro, quindi figurati tu. Io ho il microfono a delta e a maletta. La colpa è la mia perché l'ho aumentato, perché se lo diminuisco il problema non sussiste, lo sai anche tu. Quindi questo vuole uscire bene se sei uscito a scariche. Poi se ho il rumore di sottofondo del televisore e cose del genere, quelle sono altre cose, già lo sai anche tu. L'importante è che io esco chiaro, che non esco a scariche, che non esco con ronzì come l'altro giorno, e già mi hai detto tu, eccetera eccetera. Quindi per me questa parte qua va bene, non è bocciato, ma è a posto. Così anche l'87, l'unico problema è il tornado, vabbè, ha più di 20 anni, quindi a un certo punto cosa li vuoi pretendere? A un certo punto ci sono tutti i trimmer da cambiare eccetera eccetera, non amplifica più come si vede. A un certo punto insegui, cioè ci sono i potenziori, i condensatori eccetera eccetera, ci sono un zio, sono cresciuti tutto. Comunque sì. Sì, lo niente. Grazie a Dio. Sì. Sia questo, sia il coso, l'87. Vabbè, una volta c'avevo il C80 cosa ti posso dire? L'unico sbaglio che ho fatto è la verità. Antonio, hai fatto uno sbaglio, infatti me ne sono mangiato le mani. Se avessi avuto ancora come si chiama il Kimuru, sarebbe stata una cosa diversa, ti giuro. Comunque sì, posso dire, a me il Kimuru mi andava bene perché avevo QRM e un sacco di cose eccetera eccetera. Claudio lo sa, qua se tu abiti qua e non abiti al monte è un casino, veramente un casino. Ti venderesti tutto, a parte tutto, ci butteresti tutto. Perché è più un passaggio falconiano. Aspetta, muore qua. Se nel momento opportuno non sai che ti scende qualche fulmine in casa, e facciamo la fine del coso, cazzo di checco. Lo so, purtroppo è così, tanto per dire la cosa non va bene, dai. Non colpa nessuno, la verità è. Gianni, canale 15. Voi state solamente dei suggerimenti e basta, quello non lo posso rifiutare, perché è una cosa. Se mi dite che sto scendo male, basta, non è che mi incazzo, mi offende cosa del genere. Il discorso è quello lì. A volte capita che ci sono degli apparati, cazzo, purtroppo, che sono un po' di tempo che non uso, eccetera, eccetera. settimana come fa, non è che sono andato tutti i giorni come facevo prima, che stavo tutti i giorni mattina, sera e notte, stavo fino alle 5 del mattino, allora gli apparecchi lavoravano e a posto. Adesso ormai le cose sono cambiate, non c'è più quello di prima. Claudio già se lo ricorda, facevamo il muro di Berlino io e lui, io con il muro 2001, lui con quello che c'aveva lì ad attrezzo. Grazie a Dio Alghero non parlava più, Alghero eccetera eccetera, già se lo ricorda Claudio, parlevamo con tutto le... vabbè, in via di Zido era una cosa di... parlevamo, c'avevamo tutto quanto, la mezza Sardegna in mano c'avevamo, ma ho sofferto anche lì. Quando sono venuto qua a abitare, purtroppo mi sono trovato che l'ho tappato, andato di Osilo eccetera eccetera, Alghero era quello che era, l'unica cosa aperta era Alghero, il resto tutto serrato. Eia, io sono d'accordo con te, però quello che ti ha detto Luca è una cosa diversa, nel senso che bisogna cercare di fare anche, ascoltare a chi vuole ascoltare, il corso se non vuole entrare, di essere cioè, tranquillo, capito? Non lo vuoi fare nel solito e sentire tutte queste scariche, tutti questi casini, capito? E se Luca aveva invitato qua, sta tranquillo, avrebbe preso l'apparecchio e ci avrebbe buttato nella mondetta, te lo dico io. Luca è fortunato che è al monte lì, però se l'avesse abitato qua, guarda, se tu vai, Luca, non ti voglio dire niente, perché basta guardare le case che stanno vendendo qua vicino a casa mia, se stanno vendendo tutte, hai capito, per problemi di cosa, perché non, c'è qualcosa di strano, non è possibile, hai capito, che uno si venda, vabbè, sono le case dei comunisti, diceva quello, perché ne hanno comprate i partiti, quelle case in via Morandi, se stanno vendendo tutte, perché cosa? Per i vitalizi che ci sono dell'Enel, perché sono pericolosi, qualche giorno è l'ora, penso che non succederà mai, ma se dovesse succedere che scende qualche fulmine che ammazza qualcuno nei giardinetti, sta tranquillo che l'Enel finirà in galera, te lo dico io, perché non è possibile, le case sono, le hai visto anche tu qua, le ha carbonate, c'è qualcosa, ma ci sono quattro villette tutte in vendita, quelli via Morandi, tutte, strana la cosa, a parte che due di fronte a casa mia, quindi c'è qualcosa di strano, non evidentemente, boh, non lo so, hanno il condominio, visto la carbonate, l'ho visto in lì a Fiaccia, stanno vendendo quelle, facendo la palla di ginocchia. Quindi figurati tu. Gesù, Gesù. Passaggi brevi, Antonè, per carità. Che è successo, successo. Passaggi brevi, è così la cosa. Vabbè, Falcone, non c'è più, c'è Pompuglia, posso di Falcone. Soffri il naso. Oh, yeah. Vabbè, ma tu inutile che mi dici a me se stavo lì, me lo vedevo il baracchino, chi lo sa, facciamo un cambio, vieni qua, dammi quella e ti do questa a casa, ci stai? E se fresco tu? Allora, ma se a dire lì, tu e vieni qua al baracchino, un babbo, ma Marco di freddo. Cazzo c'è tra, scusami, io non ti capisco, guarda. Guardati per me, buona serata, buon proseguo, ciao ciao, grazie. Ciao ciao Gianni, ciao Marco, ciao Cattolino. Ma tu hai detto poco fa, Pompù, hai detto queste parole, se non è vero qualcuno che l'ha sentito lo dica, ha detto che se venivo lì ce lo buttavo l'apparecchio, facciamo un cambio e l'apparecchio non ce lo butto, lo piazzo lo stesso, poi il giorno che arriverà il fulmine, pazienza, mi fulminerà anche per me, già sono fulminato di mio. Certo, secondo te, quando sono stato 80, secondo te, ogni guerra è messo, 9, quando sono venuto qua a abitare ci avevo buttato l'apparato, avete la ricezione, perché è assolutamente una cosa strana, non riuscivi a sentire un tubo, già lo sa che Claudio. Gesù, Gesù. Vero è Claudio? Sì, sì, approvo tutto io. Non so come cosa cazzo di sì, comunque Cla. Ma tu hai questi problemi, Cla? Per via del traliccio ti fa quel REM. No, ma per me non è che non... Grazie, cosa. Sto facendo una cosa e non ti ho capito. Ricordo, non so manco cosa stai dicendo. Il problema è che quando c'erano i tralicci qua che attraversavano il mio condomino, era un casino. Lui lì praticamente la 15.000 in via Carlo Felice, quindi è sicuramente un casino come ricezione, ma io sto parlando di trasmissione, Antonio, non sto parlando di ricezione. Sì, ma comunque lo sto dicendo, quei tralicci sono un casino, perché ho avuto io la verità, ho avuto sempre problemi, segnale QRM9 e non sentivo nessuno, quindi non potevo parlare con nessuno, a meno che non parlavo in FM, il discorso è questo, oppure manda laterale. Lasciatelo parlare, sta che dicendo cose sagge. Sì, sì, miratomi. Antonio Grode, tu sei fortunato, grazie a Dio. Antonio, d'estate qua ci sono 10 cani che muovono la coda e mi fanno come mi sento conosce. Non ho capito, Tony, dimmi. D'estate qua in campagna ci sono 10 cani che muovono la coda e mi fanno come mi sento conosce. Ce l'ho anch'io quel problema di ricezione. Ma se tu parli così di Sardegna, per dire, non li senti? Quando invece io abitavo in via di Sindo, vorrebbe non ne avevo, parlavo tranquillamente con tutti. Il discorso è quello. Buonasera. Buonasera anche a lei. Poi l'hanno messo dentro il rizzetto e non parlava più con nessuno. Avete delle bestie, è lanciato a Ustia. Marco lì. Io già sono liscio. Capito, Tony? Ha confermato che anche lui ha il problema dei cani che agitano la coda e gli fanno QRM. Ti dai, vi saluto, riprendi. Vai Antonio Grotte, ciao. C'è uno che ha detto buonasera, che ci ha agganciato da Oschi, che è avanti, Claudio Sparviero da Sassari. A te avrà agganciato, a me con tre vatte non mi aggancia, la manca la ottava. Formaggio aveva bisogno. Sì, Francesco, dal camion. Francesco. Ciao Francesco, buonasera, ben ascoltato. 59P10 il tuo segnale. Claudio Sparviero qua dalle alture di Scala di Ciocca, in compagnia di Antonello Alessio e un po' di amici. Ok, va bene, dai, io comunque mi saluto. Du, arrangia di du. Ok, ciao a tutti, buonanotte. Claudio. Dimmi, Anto. Formaggio, te ne ha bisogno. Di? Formaggio. Sì, è buono. Caccio di voi, ferette sarde. Se è buono, a me mi accorre. E anche gli accedenti amici che hanno formaggio buono. Vabbè, fammi sapere per telefono. Ciao a tutti, dai, un abbraccio a tutti, buon proseguo per chi prosegue. Io chiudo, vado a vedere il mio pure TV, dai. Ciao ciao. Sì che stavo scherzando, mi avvi la voce a vendere formaggio. Certo. No, ho detto, gli accedenti amici che vendono formaggio buono, che già ne conosci, no che lo vendi tu. Ma che fattore? Antonio, c'è amici di tutta la Sardegna, non è un problema. Quindi va bene, dai, bombolo, ti rilancio il microfono e continua a dirigere la compagnia e io chiudo, dai, ci sentiamo domani, ciao a tutti. Ciao, ciao, ce la risentiamo. Chi è l'altro amico col camion che non ho capito, avanti. Buonasera Francesco, buonasera, in che direzione sei? Dietro a Sassari, preparato Ustini. Gappa gappa. Santiago per Radio 5 qua a Sassari. Infatti... Ciao Francesco, Tonino Cavasecchi. Hai sentito Tonino, Francesco? Sì, un po' disturbato, ma te lo sentito. Batto. Forse la televisione. acqua, ah no, condizionatore acceso, aspetta. Adesso mi senti bene, Francesco?